Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Monaco, ottobre 1980, attentato all'Oktoberfest. Che ci piaccia o no, lo sviluppo della nostra società, la maggior parte delle volte, non è affatto guidato da considerazioni razionali. Oktoberfest di Monaco, 1980. 13 morti e centinaia di feriti alla più grande festa popolare del mondo. La prima di una serie di bizzarre coincidenze consiste nel fatto che l'attentato cadesse negli ultimi giorni della campagna elettorale in Germania. L'allora presidente del Land bavarese, un conservatore di destra con un passato da nazista, si era candidato a primo ministro e pare che proprio lui, mentre il sangue sulla piazza non si era ancora rappreso, sapesse da subito chi fossero i responsabili dell'attentato. Non c'era dubbio, proclamò nei microfoni, che il crimine fosse stato perpetrato dagli anarchici. Ed ecco un motivo in più per fermare le forze della sinistra nella Repubblica. Molto presto però le indagini presentarono un quadro diverso. L'attentatore in poco tempo fu innegabile che appartenesse agli ambienti della destra radicale. Anche se nei primi giorni i poliziotti erano piuttosto avidi di risposte, la ricerca di possibili mandanti segreti negli ambienti di destra si incagliò presto. Dopo qualche tempo le indagini furono chiuse. Nel rapporto finale si spiegava che il crimine era stato perpetrato da un giovane pazzo che agiva da solo. Il tempo e il luogo li aveva decisi in base all'umore. È vero, potrebbe essere un collegamento ardito e ancora una volta nulla più che un puro caso. Ma il risultato di quelle indagini ricordava tanto un altro omicidio politico pieno di fatalità, e cioè l'omicidio del primo ministro bavarese nel 1919. Ma torniamo agli anni 80 del secolo passato. Alcuni giornalisti svolsero autonomamente delle indagini. Presto venne fuori che almeno due testimoni avevano dichiarato di aver visto l'attentatore con un gruppo di uomini. Si rivelò impossibile però proseguire nelle indagini, perché quei testimoni, uno dei quali non aveva ancora 40 anni, erano sorprendentemente morti poco tempo prima. Ma invece, poco tempo dopo, una nuova scoperta casuale aiutò a riempire le testate dei giornali. In un bosco nel nord della Germania fu scoperto un enorme deposito di armi dei radicali di destra. I giornalisti più attenti vollero sapere dagli investigatori: l'esplosivo della bomba di Monaco, ancora non identificato, poteva provenire da questo deposito? La polizia, però, si vide costretta a fermare le indagini. Una circostanza incredibilmente spiacevole impediva qualunque ulteriore indagine, perché prima che il guardiano del deposito d'armi, convinto neonazista, potesse essere interrogato, si impiccò nella cella per evitare, come scrisse nella sua lettera d'addio, di diventare un traditore. Un altro sfortunato caso, poco tempo dopo, impedì anche che si seguisse un'ulteriore traccia. Prima di uccidersi, un radicale di destra, in preda a follia omicida, aveva sfidato i poliziotti. «Ero a Monaco, ma non mi prenderete mai!» Caso volle che i poliziotti non riconoscessero i possibili significati di questa affermazione e quindi non la registrassero nei rapporti. Poi sulle carte dell'indagine si accumulò la polvere. Ma in seguito un colpo di timpano risvegliò l'interesse. Alla caduta del muro di Berlino vennero aperti gli archivi dei servizi segreti dell'Est. I reporter si trovavano davanti dei rapporti di alcuni agenti proprio su quell'attentato. Diverse spie riportavano le azioni di spionaggio dei servizi segreti della Germania dell'Ovest. Davvero l'attentato omicida ebbe luogo sotto gli occhi dei servizi segreti? La bomba di Monaco era molto simile ad un ordigno esplosivo già utilizzato da un gruppo neonazista. Quando in seguito diversi avvocati premettero per una riapertura delle indagini sull'attentato omicida alla festa della birra di Monaco, venne loro detto che il procedimento non poteva più essere riaperto. I documenti erano stati distrutti. Per puro caso, si doleva l'archivista, gli scaffali erano pieni, da qualche parte dovevamo cominciare a mettere in ordine. Ecco, dunque è vero, ad influenzare la vita spesso non sono altro che incomprensibili coincidenze, se non addirittura, come direbbe un credente, manovre incomprensibili di un essere superiore. O qualcuno ne dubita? Traduzione di Paola Del Zoppo. Robert Hültner, in libreria con la Dea Madrina, del vecchio editore, 304 pagine, 14 euro.